che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo pure tua sorella ha detto lascia stare, che con quelli così si sa che ci si va a inguaiare. Ma poi mi ha scritto in poco tempo e forse io mi sento che forse un po' ti penso. Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tuo vecchio ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Ora che fai? Mi hai fregato così non si era mai sentito. Io dentro la mia testa non ti ho mai invitata. Vorrei scappare che sei bella incasinata. Ma poi ti metti sopra me e mi metti giù di forza. Sembra che balli ad occhi chiusi, sì, sotto alla pioggia. Poi stai zitta improvvisamente, ti chiedo che ti prende. Tu mi rispondi niente, Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tipo che ci prova, che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Forse dovrei essere elastico, un po' elastico, baby. Ti annoierai un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai. Poi ci penseremo ogni tanto, io insieme ad un'altra, tu insieme ad un altro. Dio che fastidio. Però mi si ferma al battito quando ti incontro per strada, sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico e riempirei di mazzate quel tuo nuovo ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me.